and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. E un saluto anche da... Eh sì, perché oggi la settimana si apre con una di quelle notizie che uno vedrebbe meglio, non so, sull'eco di Topolinia o sull'eco di Paperopoli, che non sulle stampa normale. Ma perché subito bellissima? Bacchettone? Vabbè, dai, sono, diamo la notizia, così almeno capisco. I miei ammenicoli elettronici. Ma giustamente l'elettronica c'entra perché, cari bambini all'ascolto, l'ONU ha da poche settimane ufficializzato l'elezione di una bambina che di lavoro fa l'ambasciatrice dell'ONU per gli extraterrestri. E meno male che c'è, io ho portato anche il micro Theremin, guarda. Ecco, questo servirà sicuramente all'ambasciatrice dell'ONU per contattare i suoi amici UFO. Comunque, pensate, questa astrofisica malese, Maslam Othman, che ha 50 anni, si sveglia tutte le mattine per andare a lavorare e tutte le sante mattine spera che gli UFO si decidano a farci visita, perché sennò cosa fa? Tu prendi in giro, fai quello che prende in giro. Ma metti davvero che domani atterrino gli alieni e che non c'è nessuno che ha pensato a come accoglierli. Vabbè. Drago, è un problema. Io vi vedo già, voi, tutti lì a criticare che non ha funzionato niente, che non c'era nessuno. Vabbè, che allora nessuno era pronto ad se arrivassero a questo punto gli UFO, cioè gli extraterrestri, non si sa se esistono, no? Ma cosa vuol dire? Quindi a questo punto, se arrivassero i puffi, ci va anche un ambasciatore per i puffi? Magari potrebbe o essere un'idea. Cominciamo con gli extraterrestri, però, i puffi. È inutile che tu faccia il buffone. Guarda che io ho portato il crackle box qua. Sì, che poi l'ONU, bisogna dire che... Cosa stai facendo con questo? Sto cercando di comunicare con gli alieni. Ma non si fa così, non si fa così a comunicare con gli alieni. Ci hanno già provato quelli dell'ONU, ti ricordi? Ah già, sì, nel 77. Nel 77 hanno lanciato le missioni Voyager 1 e 2, delle navicelle che contenevano al loro interno un giradischi su cui erano incisi i suoni della Terra, ma anche, e qui la cosa importante, il primo saluto agli alieni da parte del segretario generale delle Nazioni Unite, che all'epoca era Kurt Waldheim. Sì, Kurt Waldheim era appunto il segretario generale dell'ONU in quel momento. Prima era stato un LSS e poi è diventato anche presidente. Ma tanto gli alieni mica glielo dici, no? Lui andava lì, ciao ciao, saluti dalla Terra. I sent greetings on behalf of the people of our planet. I sent greetings on behalf of the people of our planet. Non lo capiscono nemmeno gli inglesi, figurati gli extraterrestri. Però Kappa, il discorso è che io non credo che un'ambasciatrice dell'ONU sia molto utile quando arrivano gli UFO tipo Mars Attack. Tax. Quelli polverizzano il centro di New York in meno di un minuto. Cosa fa questa povera Crista? Ma mica sono così, sono come quelli di Spielberg, no? Friendly, piccolini, amici, con gli occhi dolci da cerbiatto. E tu comunichi con loro con la melodia, perché la musica è il linguaggio universale. Vabbè, però, allora. Sì, si farà così nei film, però questa ambasciatrice, film, che protocollo segue quando arrivano gli extraterrestri? Segue il protocollo di Spielberg, te l'ho detto, si mettono lì e cantano questa canzone. Ma sei sicuro? Sì. Un regista... Ha scritto regista. Il protocollo dell'ambasciatore ONU. Nel 77 sul Voyager c'era un ex nazista, meglio un regista ebreo, no? Dai, canta con me. Politicamente corretto. E cosa devo cantare? Devi cantare H-E-L-L-O. Allora, H-E-L-L-O. Ho bisogno di un vocal coach. Alieno. Ebreo. Ma come, alieno e ebreo? Ma che gli ebrei sono dappertutto, eh? Is the life on Mars? Oh, rianimazione. Vabbè, adesso rianimazione, non esageriamo. Come? È come la ricreazione. Ricreazione. Per te ci va la rianimazione. Vabbè. Il defibrillatore. Comunque, Kappa, sono eccitatissimo perché non vedo l'ora di dire ai bambini che c'è questa ambasciatrice dell'ONU per gli alieni, perché vuol dire che, insomma, è imminente lo sbarco. Ma loro non alieni. Gliene frega niente. Sono lì che giocano, pensano ai fatti loro. Se lo sapessero. L'unico che non gioca è il solito bambino Alberto. Ma poverino. Ma guardalo lì. Dai, bambino Albertini. No, ma basta, anche Albertini adesso. Albertini. Alberto, dai, il bambino Albicocca. Hai sentito che stanno arrivando gli extraterrestri? Ma dove? Sulla Terra. Le Nazioni Unite hanno perfino già nominato un ambasciatore per accoglierli. Vabbè, allora? Cioè, come cos'è allora tutta questa eccitazione? Vedi, Drago. Ma cosa vuol dire? Dai. Sembra che arrivino gli alieni, bambino Alberto. E tu che sei un bambino dell'asilo dovresti essere ancora più eccitato di noi adulti o di Drago. Che già siamo già eccitati tantissimo. Soprattutto Beh, Drago. Se fosse una grande novità sarei anche eccitato. Ma siccome non lo è... Ah, come? Non è una novità. Arrivano gli alieni, forse. Beh, per me no. Ma come no? Ma io ci sono abituato, no? Agli alieni, ma cosa dici? L'ho già detto che qui è come l'asilo di Guerre Stellari, no? Già, è vero, sì. Qui c'è di tutto, eh? Sì, sì. Ti guardi intorno, vedi piedi torti, occhi strabici, labbra leporine, braccia focomeriche. Vabbè, dai, Bertuar, qui si parla di cose serie, c'è di mezzo perfino l'ONU. E che ne so io dell'ONU? E poi scusate, ma Suor Dentona secondo voi è una terrestre? Con quella bocca che si ritrova? Vabbè, ma cosa? È solo brutta, dai, è sicuramente una terrestre. È un po' brutta, ma insomma, succede. Questo lo dite voi! Se la conoscevate bene, non dicevate così. Vabbè, dai, Bretella, usa i congiuntivi, sei all'asilo. Poi Bretella, allora! Vabbè, Bretella, no? Alberto, Albretto, Bretto, Bretella. E cosa sarebbe? È la spiegazione di Bretella, il tuo soprannome. Beh, a me sembra una stronzata. Zitti tutti, dai, ricominciamo. Dai, allora, secondo te, bambino Albertuccia, Suor Dentona è un'aliena? Ecco, siamo a questo davvero punto. Certo che no. Ma vabbè. Ma guardate che mangia anche i topi, I topi bianchi. Questa qui, l'ingoia. L'ingoia come le ciliegie, uno dietro l'altro, eh. Vabbè. L'hai vista tu, sì. L'hai vista tu fare così. Ma non l'ho vista solo io, l'hanno vista tutti. Ah, sì, infatti, sì. E poi questa qui, sotto il suo vestito nero, sotto la veste talare. Vabbè. Del prete, però va bene. Questo qui ha le squame come un serpente. Ma vabbè, Alboreto, non è che per caso hai visto delle repliche di Visitors? Sì. Allora ti sarai suggestionato. Dai, succede alla tua età. No, ve lo giuro, Sì. Suor Dentona viene da un altro pianeta, Sì. Vabbè. Anche le cose che dice sono da UFO. Ma tipo? Tipo, che ci racconta delle storielle per farci addormentare, no? A me quelle storielle terrorizzano. Vabbè. L'altro giorno ne ha detta una sul mare che si divide, no? Sì. Per far passare gli ebrei che scappano dall'Egitto. Ma come? E poi a un certo punto il mare si apre. E poi precisamente quando gli ebrei sono andati si chiude sopra gli egiziani. Ma quello è un incubo, me lo sogno ancora adesso, di giorno. Ma scusa Bertuccia, questa è la storia di Mosè, è la Bibbia, è che... Ho capito, ma a me sembra una storia di un altro pianeta. Ce n'è anche un'altra che ci racconta, quella che si chiama Apocalisse, quella la conoscete? Ma sì, ma anche quello fa parte della Bibbia, dai, il bambino... E non è fantascienza quella? Vabbè, dai, insomma. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Fa la rima. La bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Leone leopardo. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Scusate, se questa non è roba da UFO, cioè... Ma a parte che è tutta roba terrestre, leoni, agnelli... E poi cosa vuol dire che Suor Dentona è un UFO? Scusa, non vola ed è perfettamente identificata. Si chiama Suor Dentona, scusa. Ma come è? UFO vuol dire Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato. Unidentified. Ma cosa ne so io? Cosa ne sai, UFO? Cioè, se io vedo una che mangia i topi come ciliegie, così è... Sì. E sotto il vestito ha delle squame orrende. Secondo me quello lì è un UFO, anche se non vola. Ma tu Suor Dentona l'hai vista sotto il vestito, scusa? Come hai fatto? E lei? Domani e mandate i vostri a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.